Buongiorno. Ci siamo, dopo una lode così, io credo che chi non è presente deve accendere veramente la valvola, eh? Ci siamo? È come prima, quando il pastore diceva Amen, due o tre rispondevano. E allora facciamo una cosa. Io faccio sempre le domande elementari, voi lo sapete, oltre quello non riesco ad andare. Perché sei qui? Aspetta, no, facciamo ancora diverso. Non a tua moglie, non a tuo marito, girati a un altro e chiedi perché sei venuto qui questa mattina. E nemmeno ai cognati. Ok, vediamo adesso. Chi prendiamo? Anna, perché Titti è venuta qui? Che t'ha detto? Per ascoltare il pastore. E se ne andrà sorda. Perché siamo venuti qui? È una domanda così vera e reale. Io lo so che veniamo per tante motivazioni, ed è vero, ma noi veniamo per vivere Gesù e far vivere Gesù in maniera forte e potente, perché Gesù va vissuto, non va né ascoltato, né seguito, né imitato. Dico, sto esagerando, ma va vissuto, perché se lo imiti stai recitando, se lo vivi è tuo, se lo vivo è mio. Perciò noi siamo qui, abbiamo cantato con tanta forza, Gesù è il centro. Allora fai di Gesù il centro di ogni situazione. Fai come i bambini. Avete visto mai i bambini quando fanno del gelato il loro centro? È incredibile. Lo vedi negli occhi, nella bava che cola, nella supplica che fanno, tutto contemporaneamente fanno, perché quelli lo vivono già quel gelato. E alla stessa maniera noi dobbiamo sentire questo dentro quando ci interessiamo delle cose di Dio nella nostra vita. Perciò noi questa mattina vogliamo vedere alcune piccole, semplici, voi mi conoscete, piccole, semplici attività che ci permettono di vivere e far vivere Gesù nella maniera più semplice, anzi ne vedremo tre. Vai a Gesù, chiama Gesù, coinvolgi Gesù. Più semplice di così non lo possiamo dimenticare. Vai a Gesù. E io voglio leggere un passo speciale. Sono tutti passi e storie che conosciamo, va bene? E quindi non avremo nessun questo è scritto, no, lo conosciamo. E perciò avremo questo è per me. Va bene? Leggiamo dall'Evangelo di Matteo, al capitolo 11, dal verso 28. Conosciamo molto bene. Che cos'è scritto? Venite a me, ci possiamo fermare, però è bello leggerlo, riempie, dai. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Che cosa ha detto Gesù? Venite a me, l'ha detto Gesù, cioè è Lui che sta dicendo. Noi molte volte preghiamo, chiediamo, Gesù dice venite a me, noi preghiamo, Gesù vieni, E Gesù dice, no, vieni tu a me. E siamo lì a giocare. Vieni e vieni tu. E lì a tira e molla. No, Gesù dice, vieni, vieni. Cioè, noi andiamo a Gesù. Io lo so che noi, quando viviamo determinate situazioni, sorgono le domande, come andare, quando andare, perché è il momento giusto, è la posizione giusta. Ci facciamo mille domande, mentre noi dobbiamo fare come i bambini. I bambini non si fanno domande, vanno e basta, vanno e basta. Devono andare dalla mamma, vanno. Devono andare dal papà, vanno. Ed è questo che noi dobbiamo imparare. Sì, lo so, quando i bambini arrivano a 4 anni, no, intorno ai 4 anni, non si chiamano né più Giuseppe, né Antonio, né Bartolo, si chiamano perché. Sempre per ogni cosa perché. Quindi superiamo i 4 anni. Superiamo quella fase adolescenziale di bambini e non ci poniamo domande. I bambini non si pongono domande quando devono andare dalla mamma, dal papà, sia pure per le cose più semplici, non ha importanza, loro vanno, punto e basta. Ed è questo. Anzi, c'è poi la cosa più bella quando vengono a te e vengono al papà e vengono alla mamma, ma anche ai nonni e dicono a me, che chiamano Opa, specialmente la piccola che è dietro, dice Opa, giochiamo insieme? È la cosa più bella proprio, ti fa sentire, va bene, giochiamo insieme, che tu non dici no, e che giochiamo al papà e alla mamma. Allora, lei, la piccola, è la mamma, Aurora è la figlia e io sono il papà. Ci posizioniamo, ci mettiamo e poi io chiedo, allora io che cosa devo fare? Dice, e tu vai a lavorare. E devo andare via, mi devo proprio nascondere, non mi devo far vedere, hanno capito già da quell'età, è incredibile, non mi devo far vedere, poi quando è pronto da mangiare chiama e se non sei pronto si arrabbia, cioè va bene, vedete come hanno proprio afferrato già da quella età, ma vengono a me, vecchio, per dire giochiamo insieme al papà e alla mamma. Non si pongono problemi, non si pongono nessun tipo di difficoltà. Se sono sporchi o puliti, vengono a te. Non hai mai visto un bambino tutto pieno di fango correrti e volerti abbracciare e tu indietreggi? Ecco, questo è quello che il Signore dice, venite, venite a me. Gesù ha detto in Luca al capitolo 10, non ricordo bene, ha detto lasciate che i piccoli vengano a me, non impedite loro, anzi, se voi, mo lo dico a parole mie, un po' più, non diventate come questi piccoli bambini, non entrerete affatto nel regno dei cieli. In che cosa dobbiamo diventare come i piccoli bambini? Nell'imparare questa attitudine di andare a Gesù. Questo il Signore dice. Quando dice venite a me, impariamo quell'attitudine di andare. Non c'è né come né perché, non c'è né quando e né dove. C'è andare, punto e basta. Perché il Signore vuole stare con te, vuole stare con me, vuole vivere insieme le cose. Questo è il centro. Questo è fare di Gesù il centro. E questo è importante capire che è un'attitudine che noi dobbiamo imparare. Vedete, non c'è bisogno di imparare che quando abbiamo un problema andiamo a Gesù. Abbiamo appena pregato per tutti quei punti, è vero? Quando abbiamo un problema andiamo subito a Gesù. Non commettiamo questo errore. Vai anche a Gesù dicendo: Gesù, vuoi giocare con me? Non lo so che cosa vuol dire, ma tu vallo e dillo. Vai, stai con Gesù. Questo è andare al Signore con tutte le cose. Parlale con Lui, discutele con Lui, valle a dire, valle a raccontare. Sapete perché generalmente le donne piacciono di più a Gesù? Perché sono chiacchierone. Perché parlano. Noi quando andiamo a Gesù, l'uomo, tu lo sai. E dietro c'è tutta una preghiera chilometrica. No, al Signore piace che noi stiamo con Lui, che spendiamo il tempo. Vai a Lui, imparare questo da Lui e aiuta gli altri ad andare a Gesù. Non ti preoccupare di risolvere i loro problemi, non ti preoccupare di voler tirarli fuori dalla fossa dove si trovano. Perché? Perché lo sai, lo vivi anche tu. Oggi hai un problema e domani ne hai subito un altro. Quindi non aiuterai mai. Quello che devi fare, devi aiutare l'altro a vivere Gesù. Come si fa? Qui c'è il come si fa. Come fanno il papà o generalmente la mamma con il bambino? Quando il bambino va alla mamma, o perché la mamma ha da fare, o perché fa una domanda difficile, qual è la risposta della mamma? Vai da papà. Ecco, questa attitudine noi dobbiamo imparare. Vuoi aiutare l'altro? Vai da papà. Insegnagli ad andare da papà. Insegnali a condursi nella via che porta al Signore, a Gesù. E lì lo aiuti veramente. Tu ti puoi dare in mille modi nell'aiutare l'altro, e riceverai solo delusioni e amarezze. Insegnagli ad andare a Gesù e la tua vita diventerà gioiosa insieme a quella dell'altro. A questo noi siamo chiamati, fratelli e sorelle. Noi siamo chiamati a indicare la via agli altri, non a percorrerla noi per gli altri. Questo vuol dire aiutare. Vai a papà. L'altro aspetto che andiamo a vedere è: chiama Gesù. E qui leggiamo anche una storia. Qui leggiamo anche una storia molto bella, molto curiosa, ma che conosciamo anche bene. La storia del cieco, dei due ciechi, a seconda dove vai a leggere. Leggiamo in Matteo al capitolo 20, credo dal verso 29. 35, va bene. Ah, è Luca, io ho segnato tutti e due, non so mai quale devo leggere, va bene, è Luca, questo è meglio. Come egli, cioè Gesù, è una storia che conosciamo, ma leggiamola perché ci fa bene e ci fa vedere. Come egli si avvicinava a Gerico, un cieco che sedeva presso la strada mendicando, udì la folla che passava e domandò che cosa fosse. Gli fecero sapere che passava Gesù il Nazareno. Allora egli gridò: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse. Ma lui gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Continua? No. Lo possiamo continuare, va bene. Era tutta la storia. Continua. Gesù, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto a lui. Quando gli fu vicino, gli domandò: «Che vuoi che io ti faccia?» Egli rispose: «Signore, che io recuperi la vista». E Gesù gli disse: «Recuperi la vista, la tua fede ti ha salvato». E nello stesso momento recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio, e tutto il popolo, visto ciò, diede gloria a Dio. Il cieco, che bella storia, anche curiosa sotto certi aspetti. Gesù passava di lì. Quando è che Gesù passa di lì? Cioè di lì dove? Dove ci sono io, questo mi interessa. Non mi interessa che passa dove ci sei tu. A me interessa che passa dove ci sono io. Quando è che passa Gesù dove ci sono io? Per esempio, in questo momento, nel culto. Quando apri la tua Bibbia e leggi, Gesù passa di lì. Quando stai pregando, Gesù passa di lì. Quando trasmetti e vuoi far vivere Gesù anche agli altri, Gesù sta passando di lì. Gesù passa di lì. Questi sono momenti, e molti di più, ognuno conosce i suoi momenti quando Gesù passa di lì. Bene, il cieco, che era cieco però, non vedeva come noi. Ma lui, molto avveduto, che cosa fece? Avendo sentito il tumulto, tutta la folla che rumoreggiava, aveva capito che c'era una folla. Non aveva visto il possibile. Uno che chiede l'elemosina, se passa uno ogni morta di papa, insomma, alla fine della giornata non ricava più di tanto. Ma se c'è una folla, qualcuno butterà la monetina, e quindi poteva vedere il guadagno possibile che c'era in quella giornata. Il cieco non ha guardato a questo, forse per curiosità, non lo sappiamo. Non è scritto, non è dato a sapere bene bene tutti i particolari della storia, ma chiede che cosa sta succedendo. E gli rispondono molto semplicemente: sta passando Gesù il Nazareno. Che cosa fa il cieco? Grida. Abbiamo capito come si chiama Gesù? Si grida. Grida. E grida perché lo conosceva, infatti lo chiama per nome, cognome e soprannome. Gli dice: Gesù, cioè Salvatore. Gli dice: figlio di Davide, e cioè tu sei la promessa di Dio per me. E gli dice ancora: Signore, dopo, Signore. Tu sei l'Onnipotente, quello che può ogni cosa. Lo chiama perché lo conosce e grida. E poi, sappiamo, la storia è molto semplice, no? Però io voglio chiedere anche a noi. Ti informi o lasci passare Gesù? Anche questa mattina, ti informi su quello che il Signore vuole dire a te, e non fare come me della scorsa domenica, che ho assistito a una predicazione potente e grandiosa del nostro pastore. Ero dietro e ero sulla punta della sedia, proprio ad ascoltare. Nemmeno prendo generalmente le note, non ho preso nemmeno le note, però ho commesso un solo errore. Ho ascoltato per gli altri e non per me. Io pensavo proprio in quel momento: questo è buono, questo ci vuole per quello, questo ci vuole per quella. E non l'ho ascoltato, solo alla fine. Quando ha dato il fogliettino ho capito che era per me la predicazione. E lì mi dovevo ingegnare a trovare i nomi, vi ricordate, da mettere su. E i primi nomi che mi sono venuti sono i più difficili. Vabbè, questa è un'altra storia. Ma quanto è importante che ti informi, che mi informo. Perché se Gesù sta passando davanti a te e comprendi che Lui è lì per te, vuol fare qualcosa di stupendo e meraviglioso. Vedete, poi, continuando la storia del cieco, che cosa succede? Che tutta la folla, che tutti quelli che lo precedevano, lo facevano tacere. Perché? Perché probabilmente, e io ho immaginato questo, probabilmente dicevano: stai zitto, noi stiamo andando con Gesù, lui deve fare certamente qualcosa di importante, noi vogliamo vedere quel che deve fare. Sapete che cosa gli ha risposto nella mia immaginazione il cieco? Dice: voi la volete vedere, io la voglio vivere. Io la voglio vivere adesso, qui. E perciò che cosa ha fatto? Ha gridato più forte, ha gridato forte, ma non ha detto la parola, ha gridato, ecco così, ha gridato. Si sente quando uno grida, come si grida Gesù? Io non so come si grida Gesù, so che cosa vuol dire gridare. Allora, qualcuno dice: no, ma noi possiamo gridare nel cuore. Ma non è più gridare. Gridare è gridare, è fare di tutto. Io non voglio dire che mo vai in mezzo alla strada e ti metti a gridare, assolutamente, non vorrei che fosse di scandalo anche per la Chiesa del Signore, ma gridare vuol dire farsi sentire. Fino a quando l'altro ti sente, ha gridato. Vedete, era cieco, però era sordo pure da un orecchio. Quando gli hanno impedito di parlare, di gridare, lui non ha sentito da quell'orecchio. Non sentiva da quell'orecchio. Però ha sentito subito quando Gesù ha sussurrato: chi è che mi sta chiamando? Fatelo venire da me. L'ha sentito subito. Vedete? Noi lo sentiamo subito quando il Signore sta parlando a noi. Lo avvertiamo, non è qualcosa che si può spiegare, che io ti posso spiegare, perché tu lo vivi in una maniera, io lo vivo in un'altra maniera, ma lo avverti, lo senti che Gesù sta parlando al tuo cuore. Forse è una parola, forse è un atteggiamento, forse è qualcosa che accade, ma tu lo senti che Gesù ti sta parlando, e quello devi afferrare. Che cosa vuoi che io ti faccia? Lui sapeva esattamente: Signore. Già da questo, Signore, cioè tu sei l'Onnipotente, tu sei colui che guarisce, colui che salva, colui che sana, colui che mantiene le promesse, che io recuperi la vista. E Gesù gli ha fatto recuperare la vista? No. Che cosa ha detto Gesù? Che c'è da gridare e non da sussurrare. Poi un po' di sordità me la trovo pure, allora. Che cosa ha fatto? Diciamo di nuovo. Lo ha salvato. Ha detto: la tua fede ti ha salvato. Quando gridi, chi è che grida? Grida chi è convinto che accadrà una cosa. Questo vuol dire fede. Tradotta in altri termini, tu gridi quando credi veramente che il Signore sta per fare qualcosa di potente nella tua vita. Quella è fede. Quando sussurriamo è perché noi stessi non lo crediamo e vogliamo che il Signore poi lo faccia. No, lui ha gridato e ha gridato più forte. E in quel momento Gesù si è fermato ed è andato a lui. Che vuoi che ti faccio? Che io recuperi la fede? No, prima la salvezza, la tua fede ti ha salvata. E in quel momento, subito dopo, ha ricevuto la guarigione anche dalla cecità. Sapete, anche questo è curioso. Sapete come ci chiama la Bibbia? Sì, possiamo vedere in Atti degli Apostoli, per la prima volta cristiani, credenti, santi, figli di Dio. Ma la maniera più potente che la Bibbia ci appioppa un nome, giù dal verso 1 o Apocalisse 17, i chiamati. E devo dire, chi sta attento, hai visto che risponde? No, non è vero, siamo tutti ascoltando quello che il Signore sta dicendo. I chiamati, tu sei il chiamato. E giù dal capitolo 1 dice, ai chiamati che sono da Dio grandemente amati. Ai chiamati. Ecco perché il gridare forte è sinonimo di fede. Non stare ad ascoltare la folla che dice tu stai zitto. Quella è voce del diavolo. Tu stai zitto. No, tu grida. Non è il momento opportuno di parlare e testimoniare, non mi sento, come prima devo ricevere io la guarigione, prima io devo vedere. Chiamato per chiamare. Quindi non stare ad ascoltare quelle voci che vogliono sminuire l'opera di Dio nella tua vita. Dobbiamo concludere, c'è un ultimo punto e in una piccola maratona ce la facciamo. Coinvolgi Gesù. Un'altra storia molto bella in Luca al capitolo 19 al verso 1. È una storia che tutti quanti noi anche conosciamo. È una storia molto bella ma che ci parla molto. Chi è? La storia di Zaccheo. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Vedete? È la storia subito dopo di quella del cieco. Perché mentre lì usciva, qui sta entrando. Attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù. Ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Continuiamo a leggere. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore, ascoltate quello che disse: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, a prescindere. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Gesù gli disse: ecco, di nuovo, la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Zaccheo, che bella storia, eh? La conosciamo. Conoscete la canzoncina di Zaccheo? Lei, sì. Tu la conosci? No. Vedi quando non cresci da piccolo nella fede, ti perdi le cose migliori. Non conosce la... Gliela vogliamo cantare, la canzoncina? Come fa? Conosci tu Zaccheo, tanto piccolo, sull'albero vuole vedere Gesù. Va bene, basta, mo se no mi fa... che bello, vedi? Io, e non la dimentichi mai, non l'ho mai imparata, però l'ho imparata a tavola con i miei bambini, specialmente il più piccolo, perché noi avevamo i momenti, o facevamo la preghiera, o raccontavamo una storiella, oppure cantavamo una canzoncina. E quando dicevo che cantavamo una canzoncina, qua conosci tu Zaccheo, perché aveva i gesti, dovevi fare i gesti, e poi potevamo iniziare a mangiare. E per il pastore, quando era piccolo, non era normale che tu ti fermavi a metà canzone. La dovevi portare fino a compimento. E lì c'era la pasta che dava il suo odore. È reale il fatto. La mamma è di testimonianza. È vero. Vedi, conosciamo questa storia in una maniera incredibile da tutti i lati. Volevo dire semplicemente questo riguardo a Zaccheo. Gesù voleva entrare in casa sua. No, anzi prima. Zaccheo voleva vedere chi era Gesù. Non è come il cieco. Il cieco lo conosceva Gesù, pur essendo cieco. Lo ha chiamato nome, cognome e soprannome. Zaccheo non lo conosceva, lo voleva vedere. E sappiamo la storia, perché era piccolo e saldito su questo albero, e quando Gesù è passato di lì, Gesù ha alzato gli occhi e ha detto: scendi Zaccheo, perché quest'oggi io starò a casa tua. Che cosa è scritto? Che Zaccheo scese e... con gioia, è quello che noi dobbiamo sottolineare, con gioia. Zaccheo ha coinvolto Gesù. Diciamo pure che forse era incosciente e che non sapeva quello che gli aspettava, non è vero? Perché lo sapeva molto bene, lo sappiamo molto bene. Zaccheo non conosceva Gesù, ma lo sapeva molto bene. Zaccheo non sapeva chi era Gesù, ma sapeva molto bene quello che Gesù predicava e diceva, perché appena entrato in casa sua ha detto, io do metà dei miei beni ai poveri, a prescindere, perché... Perché si sapeva che lui era un esattore delle tasse, però che imbrogliava e che prendeva più per lui che per dare alle tasse stesse. Ma qui Zaccheo ha coinvolto Gesù e Gesù ha capovolto la sua vita. No, è Zaccheo che ha capovolto la sua vita. Gesù non ha fatto proprio niente, non ha detto nemmeno una parola. Cioè, fino a quel punto Gesù non si è espresso nemmeno. È solo entrato in casa sua, non ha predicato, non gli ha puntato il dito, non ha detto sei peccatore, non gli ha dato una testimonianza, niente. Zaccheo subito, dal primo momento, ha detto io do la metà. La sua vita era già sotto sopra. Coinvolgi Gesù in tutte le tue situazioni, che sai o che non sai quello che può accadere. È cambiata la vita di Zaccheo totalmente. Da quel momento poi Zaccheo è diventato anche più povero, ha dato la metà dei suoi beni. Se c'era qualcuno che ha frodato, gli ha restituito anche il quadruplo. Ma non gli interessava tutto questo, era la gioia che lui avvertiva dentro di lui, che gli ha permesso di vivere quella grande speranza e che gli ha ridato la vita. Questo è vivere Gesù, questo è Gesù al centro della, della nostra vita. Perciò coinvolgi Gesù nelle tue cose. Non fare così, che ci sono cose che devo risolvere io e cose che deve risolvere Gesù. No, Gesù deve risolvere ogni situazione. Ogni situazione. Cioè, quando noi lo coinvolgiamo, noi mettiamo sotto sopra la nostra vita. Ecco, qui potrebbe venire una domanda, per esempio, se noi domandassimo a Zaccheo che cosa è cambiato nella tua vita, Zaccheo che cosa avrebbe risposto? È cambiato che continuo a fare le fatture delle tasse, però non imbroglio più. Continuo il mio lavoro, guadagno quello che è giusto, ma non rubo più. Vedi, in poche parole avrebbe potuto delineare il cambiamento avvenuto. E se io lo chiedo a te adesso, a me, e dico, sapresti quantificare in due parole che cosa è cambiato nella tua vita quando hai coinvolto Gesù? Fate sì con la testa. Fate sì, anche se non fate brave, grazie. Fate sì con la testa. Perché quando noi andiamo agli altri dobbiamo mostrare Gesù, non parlare di Gesù. E tu puoi mostrare a Gesù mostrando, non raccontando quello che è cambiato nella tua vita. Quello che è cambiato nella tua vita lo devi far raccontare a tuo marito o a tua moglie o ai tuoi figli. O ai tuoi genitori, loro devono raccontare di te. Tu devi mostrare, io devo mostrare con la mia vita il cambiamento che è avvenuto. Perciò andiamocene con questa domanda. Se adesso appena usciamo qualcuno, io voglio leggere un ultimo passo, se appena usciamo qualcuno ci chiedesse, ma che cosa ha fatto Gesù per te? Che cosa è cambiato nella tua vita? Vedete, l'ultimo esempio che voglio fare e leggervi è di Paolo. Ciò che è cambiato nella vita di Paolo. E lo leggo dalla prima lettera a Timoteo, il capitolo 1, alcuni versi, anzi li leggo imbrogliati proprio per farvi capire. Vediamo, ecco, interrogando Paolo, che cosa è cambiato in te? Allora lui, che cosa è cambiato in te, risponderebbe in questa maniera, il verso 13, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. Paolo ha saputo, ne ha fatte di tutto e di più, ma ha saputo quantificare in tre parole la sua vita passata. Era un bestemmiatore, eppure era un religioso molto praticante, aveva la lettera dai sommi sacerdoti che doveva andare agli altri. Era uno attestato che era un praticante proprio forte. Eppure dice di sé, ero un bestemmiatore. E dice di sé, un persecutore, perché lo sappiamo, la storia lo dice, ha perseguitato la Chiesa di Gesù, un violento. Non lo faceva solo perché era giusto. Non lo faceva perché la sua religione glielo imponeva. Lo faceva perché aveva piacere, perché era violento dentro. Vedete? Questo ha testimoniato Paolo di se stesso. E se noi poi potessimo chiedere che cosa è cambiato dentro di te, col verso 12 Paolo risponderebbe: io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che ero un bestemmiatore, persecutore e violento. È incredibile. Cioè, se ti viene di pensare uno che deve essere al servizio del Signore, dovrebbe essere uno un po', almeno un po' a modo, un po' educato, un po'. Questo era proprio contrario. E il Signore ha scelto me, ha scelto te, per essere al suo servizio. E noi siamo l'esempio vivente. E ultima cosa, qual è la conseguenza? Ecco, leggendo poi nel verso 14 vediamo la conseguenza, e qui è Paolo che dà la testimonianza di quello che vive dentro. Ecco, quello che vivi dentro lo puoi raccontare, perché quello che vivi dentro lo vivi solo tu, e tu quello lo puoi raccontare e mostrare. E dice qui: e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione, degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Gloria a Dio. Non è stupendo? Non è anche la nostra storia questo, questa? Allora, povero Jonathan, l'ho messo lì da mezz'ora, ma io non ho finito in orario. Va bene. Allora, vai a Gesù, andiamo a Gesù, a proposito e a sproposito. Per il Signore non è mai troppo come per un genitore. Chiama Gesù, non si stanca di sentire sempre le stesse cose, non si stanca come un padre, non si stanca fino a quando non vede il bene del proprio figlio, e coinvolgilo, perché questo cambia realmente il nostro modo di vivere, il nostro essere. Amen? Vogliamo alzarci in piedi. Signore Gesù, io voglio ringraziarti perché non solo hai stravolto la mia vita, ma la continui a capovolgere ogni volta, anche nelle piccolissime cose. Grazie Gesù, perché sei presente. Grazie per ognuno di noi, che continui a intervenire nella nostra vita, nelle grandi come nelle più piccole delle cose che viviamo. E io voglio affidare ognuno di te, di noi, a te, oh Signore, affinché ognuno di noi può essere il tuo prolungamento in quello che siamo e in quello che facciamo, per rappresentare, per vivere te, per far sì che tu sia il centro della vita nostra e degli altri. In Cristo Gesù. Amen.